Spesso sia Falcone che Borsellino nella vita dovettero affrontare delle avversità poste in essere non solo dalla mafia ma anche da coloro che stavano loro attorno. Quindi diciamo è questo quello che dà valore anche al loro sacrificio di aver saputo resistere in questi momenti. E il suo pianto, il fatto di essere stato tradito, lui che era una persona assolutamente sincera, trasparente, beh, il dolore di riscontrare un tradimento da parte di un amico, certamente, però non siamo riusciti ancora a capire chi poteva essere questo amico e speriamo di scoprirlo, che le indagini possano scoprirlo. Un amico traditore, dietro forse la strage anche di Via D'Amelio, interessi convergenti pare forse anche nella strage di Capaci, sembrano, diciamo, tracciare alcune indagini ancora in corso. Lei parla chiaramente delle stragi nel suo libro e io questo non posso non chiederlo, procuratore, ma secondo lei, ecco, anche dietro la strage di Capaci un giorno, diciamo, si scopriranno dei segreti che faranno tremare le istituzioni? Ma io spero che sia fatta piena verità e piena luce su tutto ciò, anche perché lo dobbiamo alle vittime, ai parenti delle vittime, trovare tutti i responsabili, non solamente alcuni. E questo è importante. Devo dire che è terribile, è lacerante intuire certe cose e non poterle dimostrare, perché non c'è dubbio che Falcone doveva essere inizialmente ucciso a Roma, per una strage di Roma, in maniera molto più semplice di come poi è stato così organizzato il suo attentato. E poi è arrivato a un certo punto questo comando che operava a Roma e che non era riuscito ad attuare immediatamente questo risultato, fu richiamato per dire che avevano trovato qualcosa di meglio e pensarono di minare con 500 kg di tritolo un'autostrada, una cosa che diciamo non è solita nelle azioni della mafia. E quindi è qualcosa che si è aggiunta, qualcosa ci doveva fare il giro del mondo e impressionare il mondo. E questo certamente lascia intuire delle finalità che trascendono quelle di Cosa Nostra. E che non hanno ancora una No. direzione precisa. Beh, la responsabilità penale è personale, quindi bisogna trovare elementi concreti nei confronti delle persone, non basta Certo. appunto. A quel momento risale anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui si torna spesso a riparlare. È possibile, secondo lei, oggi ipotizzare, immaginare una revisione o una correzione di quel reato? Non si può eliminare quindi il concorso di persone, solo che la Cassazione ha stabilito dei limiti, dei paletti talmente rigorosi che alle volte è difficile trovare le prove per condannare per questo reato, per cui si potrebbe pensare di creare dei nuovi reati che siano magari più specifici nei comportamenti, e quindi poter colpire quella che è una cosa essenziale, cioè colpire l'area grigia che sta intorno a Cosa Nostra, con quella teoria di professionisti, imprenditori, amministratori, politici che fanno la vera forza della mafia, perché senza di loro i mafiosi non potrebbero avere le competenze per esempio, per riciclare il denaro, per mettere su delle imprese o delle multinazionali. Quindi, se ho capito bene, dei reati per contestare dei fatti precisi, ma questo vuol dire in qualche modo mandare in pensione la più generica formula del Ma no, concorso no esterno in questa associazione formula mafiosa? rimane nei casi in cui ci siano gli elementi per poterla portare fino in fondo. Se poi c'è un caso specifico in cui si può contestare un comportamento con una pena equiparata a quella del concorso esterno, sarebbe più facile trovare le prove per la responsabilità. Ecco, procuratore, lei in un capitolo del suo libro riporta alcune parole di Falcone che diceva che se la mafia fosse inserita in un sistema fondamentalmente sano, per sradicarla basterebbe un'azione di polizia. Oggi però c'è anche chi, come ad esempio Beppe Grillo, esclama che i partiti sono anche peggio della mafia, che non strangola. Beh, in realtà, come ho già detto, la mafia strangola, perché è un'azione oppressiva nei confronti dei commercianti, di coloro che sottostanno al racket. In un momento di crisi economica, dovere pure dare un contributo alle organizzazioni criminali è veramente appunto qualcosa che non si può sopportare. Per cui forse Grillo voleva sfruttare politicamente un paradosso, ma credo che il paragone sia assolutamente sbagliato, perché la mafia strangola, altro che se non strangola. Ed è pericoloso fare paragoni di questo tipo da parte di chi prende anche un tot di voti? Beh, certamente io rispetto lo Stato e le istituzioni, anche gli uomini che le rappresentano, e quindi sotto questo profilo, anche secondo l'insegnamento di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, che erano sempre rispettosi delle istituzioni e della forza dello Stato, il dovere di rappresentare come servitore dello Stato anche queste istituzioni. A proposito di carceri, ecco, lei come bisogna considerare, secondo lei, il fatto che nelle carceri palermitane questa volta c'è stato un totale disinteresse rispetto alle ultime amministrative? Ah, ci possono essere due interpretazioni, cioè una potrebbe essere quella di una forma di protesta che coincide con quella di tanti cittadini che non si sono recati alle urne. La seconda interpretazione potrebbe essere anche più benevola, nel senso che non hanno ricevuto indicazioni di voto dall'esterno del carcere, e quindi vuol dire che non ci sono contatti tali da determinare un appoggio verso alcuni candidati rispetto ad altri. Quindi Cosa Nostra è un po' più distante rispetto crisi, a quello che succede in nella città simbolo. E noi lo speriamo sempre di più che sia in crisi. L'ultima cosa che le chiedo, procuratore, è ancora riguardante gli anniversari. Abbiamo ricordato come 20 anni fa ci siano state le stragi, ma 10 anni prima, 30 anni fa, c'erano stati anche i delitti di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa. Proprio da parte di Pio La Torre e dell'allora ministro Rognoni partì la legge che poi ha portato anche alla confisca e al riutilizzo dei beni tolti alla mafia. Oggi si discute sulla possibilità di venderli quei beni. Il ministro dell'Interno Cancellieri dice di non aver paura di venderli. Lei è d'accordo? Ma guardi, questa è una vecchia storia. Io dico che se un bene non si può utilizzare, è un bene che non fa completare fino in fondo quella che è la funzione della confisca, e cioè l'utilizzazione di quel bene. Quindi se non si può utilizzare, questo lo prevede già la legge attuale, il codice antimafia, cioè nel senso che si può anche ora vendere il bene confiscato. Quindi non è una novità in assoluto, naturalmente il problema di entrare in quest'ordine di idee e cercare di attuare. Il problema, per esempio, il 60% dei beni sono colpiti da ipoteca e quindi non si possono utilizzare. Allora, certo, Forse sarebbe meglio avere un po' di soldi per liberare i beni dalle ipoteche, oppure cedere i beni e non avere questo ulteriore peso. Quindi occorre una visione manageriale di tutto il problema per avere il massimo del risultato e evitare che l'80% dei beni siano inutilizzati.